English Bit di Giulia Crivelli. Heat. Trump vented fury at UK leader for Huawei decision. Johnson fuels White House heat split adds to existing tensions. Trump investe il Regno Unito con la sua furia. Johnson sente la pressione della Casa Bianca, la divisione si aggiunge alle tensioni preesistenti. Coronavirus dimenticato per Financial Times. Il titolo del primo venerdì di febbraio è tutto per Trump e Johnson. La prima parola che ci interessa è vented, simple past del verbo to vent, regolare, to vent, vented, vented, che significa indirizzare qualcosa verso qualcuno come se fosse un vento di burrasca. He vented his anger on the referee, investì l'arbitro con tutta la sua rabbia. C'è anche il sostantivo vent, she gave full vent to her feelings in a violent outburst, diede libero sfogo ai suoi sentimenti in un'esplosione di rabbia. Ma vediamo anche fury, che possiamo tradurre con furia, nel senso di forte rabbia. Her eyes blazed with fury. I suoi occhi brillavano di rabbia. La parola può essere usata anche per indicare una violenta reazione dell'opinione pubblica. Fury over tax increase. La rabbia che si scatena contro l'aumento delle tasse. Come in italiano, si può pensare anche ai fenomeni naturali. There was no shelter from the fury of the storm. Non c'era possibile riparo dalla furia della tempesta. E tornando alle emozioni, he flew into a fury when I refused to behave as he wanted. Fu preda di un accesso di rabbia quando mi rifiutai di comportarmi nel modo in cui mi aveva chiesto di fare. L'aggettivo è furious, che abbiamo imparato a conoscere grazie alla serie di film Fast and Furious. She was absolutely furious at having been deceived. Era assolutamente furiosa per essere stata presa in giro. He was furious with himself for letting things get so out of control. Era arrabbiatissimo con se stesso per aver lasciato che le cose andassero tanto fuori controllo. I am furious that I was not told about it. Sono fuori di me perché non mi avete detto niente. A furious debate, un dibattito molto, molto acceso. Quanto all'avverbio furiously, l'uso è simile. They worked furiously all weekend, trying to get it finished on time. Lavorarono furiosamente per tutto il weekend nel tentativo di finire il lavoro per tempo. Tornando al titolo di Financial Times, notiamo l'espressione to feel the heat, letteralmente sentire il calore estremo. In italiano però diciamo sentire la pressione, il peso, sempre in senso figurato.